sono più i flauti. Sì. E lei ci sono quelli di seconda. Che fanno? Sono la 6? Quattro battute dopo la lettera G e le ultime tre battute le fa solo Lorenzo. Va bene? Chiuso, Pie Jesu, vediamoci Pie Jesu.